Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno dalle cuorine e le denarine. Allora. Denarine poco. Allora, questa è una mattinata in cui molto cuore, poco denarine, parliamo molto di denari. Nonostante quello che pensano, cioè, sai che c'è gente che pensa che io faccia delle operazioni in borsa di quelle fantasmagoriche, peggio dei derivati finanziari. Infatti ecco. Io le chiedo sempre dei consigli, ma poi alla fine parliamo sempre, no? Quanta acqua bere, il sale non sale, i carboidrati, riduci, mangia più proteine e bla bla. E invece... E le fibre. Esatto. Invece questa è la mattinata in cui ancora tutti commentano i risultati del primo turno elettorale per le amministrative. Cosa potevamo fare? Non farci anche noi gli affari degli altri politici? Allora, però lo raccontiamo a modo nostro, no? Questo appuntamento. In apertura vogliamo dedicare un pensiero e un sorriso ad un gruppo di anziani, una cinquantina, non rido del fatto degli anziani, rido di quello che è capitato loro. Domenica sera stavano tornando da una vacanza al mare, erano su un pullman, a causa del traffico autostradale non sono riusciti per un soffio, arrivando 3 minuti dopo le 23 a votare per il sindaco del proprio comune. Cioè si erano scapecollati per la strada. Poverini. A rischio pure di fare qualche incidente, perché insomma se la sono presa proprio un po' di fretta. E allora voi direte, che cosa vi fa tanto ridere di questa vicenda? Mi ha fatto sorridere il nome del paese dove erano destinati, perché si chiama Rottofreno, è in provincia di Piacenza. A giudicare dalla velocità dell'autobus, i freni invece hanno per fortuna funzionato bene, ma il voto niente da fare, nonostante le proteste di questi signori che testimoniano ancora un vivo senso civico, e questo ci fa piacere. Peraltro, l'ironia della sorte, il sindaco è stato già eletto, per cui non possono neanche avere l'opportunità del ballottaggio, e quindi a Rottofreno c'è il sindaco, e adesso fra 15 giorni vanno in vacanza, non devono neanche ammazzarsi per tornare indietro. Allora io tra 15 giorni ti porto a Rottofreno, vedi che già l'idea di questo paesino che mi auguro ridente. Esatto. Andiamo a trovare qualcuno che ci ascolta, magari ci chiama. Chiamateci, perché io ve la porto, ve la porto e ve la lascio anche lì, chissà che vi faccia ritornare il buon umore, perché i nostri amici saranno stati abbastanza seccati. Esatto. Saranno andati sicuramente in fumo tutti i vantaggi che della vacanza al mare, che tra l'altro sai che ho letto che le ricerche hanno studiato il legame tra il rumore costante e calmante delle onde e la sincronizzazione delle onde cerebrali, che funziona come una sorta di ninna nanna. Noi tra l'altro che parleremo meraviglia. Proprio di cervello, che non è sempre sincronizzato, soprattutto in questo periodo. No, sembra anzi, un po' che vada per i fatti suoi. È proprio un po' fuori fase. Allora noi lo faremo tornare indietro a stare nel qui e ora, che sembra aiuti anche il cervello per fare le cose per bene. Ma intanto raccontateci, se non siete stati voi sull'autobus diretto a Rottofreno e quindi se non avete avuto questa contrattempo che ha mandato un po' a monte tutti i benefici, che cosa vi fa arrabbiare, stressare di fronte agli inconvenienti che si possono manifestare nel corso della giornata? Voi come reagite? Contate fino a 10? Avete una strategia? Fate home? Oppure cercate di mordere il vostro vicino? Mi vedi in posizione zen. Io stamattina ho già incontrato un signore all'ATM Point sì. del Duomo. Sono andata a chiedere un'informazione, ma perché semplice, la mia tesserina era smagnetizzata. A momenti volava dall'altra parte a sbranarmi. Certo, quelli che fanno invece il volo del tornello per non pagare non li vedono mai. Oh, no, mamma ecco. mia. Però per mamma te che mia. Sei corretta voi, ho detto vabbè. Signore mio, se la prenda un po' con calma, sorrida. Camomillona di prima mattina, altro che i 5 con caffè noi. Di ieri. Rassegna stampa, si parte. Partiamo come sempre con la borsa e i mercati finanziari, quelli a cui io guardo tanto per tutte le mie operazioni spericolate di borsa, come molti pensano. Allora, intanto abbiamo delle buone notizie stamattina, borse molto positive, abbiamo Parigi in rialzo dell'1,24%, Francoforte più 1,45%, Londra più 0,6%, Milano più 1,74%. Londra la grande osservata speciale, lo sarà per almeno le prossime 2 settimane, perché qua il rischio Brexit comincia ad agitare i sonni di molti operatori di borsa, anche perché nei sondaggi sondaggi sono sempre di più coloro che sarebbero favorevoli ad un'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Per quello che riguarda Milano, questo vistoso rialzo stamattina è dovuto a tutti i titoli bancari: la Pop Milano più 4,78, Pop Emilia Romagna più 4,66, Monte dei Paschi più 4,53, Ubibanca più 4. Ma vanno bene anche i titoli petroliferi e il Banco Popolare, al secondo giorno di aumento di capitale, guadagna il 3,37%. Un solo titolo negativo stamattina a Milano è CNH Industrial, sta perdendo lo 0,6%. Anche Wall Street ieri ha avuto una giornata molto positiva. Lo Standard & Poor's, l'indice appunto Standard & Poor's, si è portato sui massimi dal 2016 dopo quanto dichiarato dal presidente della Federal Reserve Janet Yellen. C'è stato un intervento pubblico a Filadelfia e ha detto, riferendosi ai dati sul mercato del lavoro americano che sono usciti venerdì scorso, è il peggior dato da tempo. Questo comporta che naturalmente dovremo stare attenti sulla politica monetaria. A giugno ha fatto capire non si farà nessun intervento sui tassi, quindi non aumentano di nuovo, forse a luglio, ma in realtà adesso anche dagli Stati Uniti è stato fatto capire che i riflettori sono puntati sulla Brexit, che potrebbe un po' scompaginare naturalmente le attenzioni degli operatori. Anche Tokyo stamattina è stata positiva, ha chiuso con un rialzo dello 0,6%. Allora, la rassegna stampa questa mattina è un po' curiosa perché vado ad un approfondimento. Parliamo, Nicoletta, di quello che tu sai che è il bene materiale più prezioso per gli italiani. La casa. Anche i microfoni magari, della radio, sì, sono preziosi quando sono accesi. Soprattutto bisogna accenderli, ecco, ha ragione. Sì. La casa e meglio ancora a rottofreno. Esatto, chissà quanti sono proprietari della prima casa o della seconda. Allora, la casa, anche se negli ultimi anni questo è stato un investimento un po' meno gettonato dalle famiglie italiane, lo è stato appunto per tante ragioni. Intanto il credito è stato razionato, abbiamo avuto una crisi finanziaria di portata eccezionale che ha portato appunto le banche ad essere molto più severe nell'erogazione dei mutui, che sono stati davvero concessi in un periodo molto lungo con il contagocce. Adesso hanno ripreso invece ad erogare in maniera un po' più intensa. E poi l'altro grande tema a cui gli italiani guardano con attenzione perché si indispettiscono: la fiscalità sulla casa viene continuamente ritoccata e quindi gli italiani hanno inserito il freno a mano e investito meno nel mattone. Ora però si torna a puntare sul rilancio del settore immobiliare, ce lo dicono tante statistiche, le compravendite sono in crescita, le banche stanno aiutando, hanno ripreso da mesi appunto, come vi dicevo, ad erogare mutui, anche perché con i tassi così bassi le condizioni di mercato sono irripetibili. E poi ci sono state tante iniziative di sostegno per incoraggiare soprattutto i giovani a mettere su casa. Allora, oggi a Roma si fa un punto complessivo della situazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con il seminario dal titolo Fare casa, sostegno al credito, agevolazioni fiscali per l'abitare delle famiglie italiane. Ci facciamo raccontare tutto dal dottor Roberto Basso, direttore della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che salutiamo, grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Allora, oggi si parlerà di mutui, fiscalità, strumenti messi a disposizione di recente dal governo per incentivare l'acquisto della prima casa. Adesso facciamo anche un riepilogo della situazione, anche su tutti gli interventi che la legge di stabilità ha messo in campo per ridare un po' di sostegno al mattone italiano. Ma, dottor Basso, qual è nel complesso lo spirito dell'iniziativa di oggi di Fare Casa? Lo spirito è quello della organicità. Vogliamo ricordare a tutti coloro che possono avere un beneficio dalle misure prese dal governo quali sono le opportunità a loro disposizione. Le opportunità sono tante, sono anche il frutto di misure prese da governi precedenti che non vengono smentite, ma che anzi vengono valorizzate dalla continuità. E quindi abbiamo pensato oggi di mettere insieme tutte queste misure e raccontarle agli italiani, chiedendo la collaborazione di tutti i soggetti che hanno rapporti con gli italiani che devono comprare una casa o che devono ristrutturarla, dalle banche alle associazioni imprenditoriali, alle associazioni per esempio degli agenti immobiliari. Senta, dottor Basso, allora lei diceva iniziative che già conoscevamo ed altre che sono state messe in campo più recentemente. Oggi è l'occasione per fare un punto dettagliato della situazione su tutti gli strumenti di cui dispongono gli italiani per mettere su casa. Allora, sul tema per esempio fiscale, gli italiani sanno bene che da tempo gli sconti fiscali per la manutenzione straordinaria degli immobili ormai sono diventati strutturali perché sono appunto in vigore da oltre 10 anni. In questo momento sono peraltro anche particolarmente vantaggiosi generosi. E generosi, i temi un po' più nuovi sono quelli legati al credito, perché per esempio da pochi mesi è entrato in vigore il leasing prima casa, no? Che è una opportunità nuova per chi desidera una casa da adibire ad abitazione principale. Ci sono degli sgravi fiscali che riguardano soprattutto i giovani di età inferiore a 35 anni, una misura varata appunto con la manovra di stabilità 2016. Abbiamo dei dati su come sta andando questa novità, per esempio? Noi ne abbiamo parlato raccontandone i dettagli, il funzionamento, ma c'è già un primo monitoraggio condotto dal Ministero dell'Economia? È presto per avere dei risultati sul leasing immobiliare abitativo, che come lei ricordava è la misura più recente tra quelle che vengono attualmente utilizzate. Abbiamo un monitoraggio di tutte le misure che sono attive da almeno un anno e su quelle misure i dati sono incoraggianti. Questa è una misura nuova, il leasing fino ad oggi si è diffuso soprattutto in relazione ad altri beni, penso per esempio all'autovettura, e quindi è una sperimentazione della quale forse si parla poco. Anche per questo oggi abbiamo voluto dedicare una iniziativa per ricordare, certo, queste misure. Lei ha un monitoraggio delle misure in vigore da un anno, che dati ci può dare, dottor Basso? I dati per esempio che io vorrei ricordare non riguardano solo gli sconti, che è sicuramente un tema molto utile, ma anche dati relativi a chi per esempio si trova in difficoltà nel pagamento del mutuo. Forse non sono molti quelli che sanno che chi dovesse avere una difficoltà momentanea nel rimborsare le rate del mutuo può avvalersi di un fondo, e questo fondo consente di sospendere il pagamento per 18 mesi. Noi abbiamo un quadro interessante su questo tipo di misure. Fondo di solidarietà, sì. Esatto, abbiamo ricevuto 48.255 pratiche per la sospensione delle rate. Nel 90% si tratta di persone che hanno perso il lavoro e quindi in attesa di recuperare occupazione e reddito non vogliono ovviamente perdere l'immobile. In questi casi il fondo interviene fino a 18 mesi e può sospendere il pagamento dell'intera, certo, rata per un anno e mezzo. Dottor Basso, non per sminuire quello che lei ci stava raccontando, conoscevamo molto bene questo fondo di solidarietà, ci fa piacere che ci abbia dato questi dati, e peraltro il fondo che ha sostituito appunto la moratoria che era stata firmata tra ABI e Associazione dei Consumatori nella fase precedente. Io comunque la ringrazio, so che tra qualche minuto iniziate l'incontro, grazie per i dati che ci ha fornito in anteprima, buon lavoro. La casa fra decisione di investimento e voglia di futuro, peraltro, sarà invece il tema dell'intervento conclusivo di questa giornata che viene assegnato al ministro dell'economia Padoan. Grazie dottor Basso, grazie, buona giornata. Buona giornata. Siamo pronti, andiamo a Rottofreno, sì, con il traffico. Enrico ci scrive: come cosa si dice? Chiamano gli abitanti di Rottofreno? Sfrenati, scrive Enrico. E secondo voi scrivetecelo. Guardata, con questo domandone però sì, ma nessun libro però, questo non è un quizzettone da librone. Magari ci chiama il sindaco di Rottofreno che ha vinto le elezioni. Sì, quello dove ti porto. Andiamo. Cuore e denari. E torniamo con la rassegna stampa di Cuore, e oggi Deborah iniziamo con un dato che fa riflettere, riguarda l'HIV che purtroppo non ferma la sua corsa, il contagio, pensate che in Italia viaggia al ritmo di un nuovo caso ogni 2 ore, e si tratta soprattutto di giovani. Inoltre, una persona su 4 con infezione da HIV non sa di essere infetta. La situazione è veramente preoccupante, bisogna iniziare a riflettere. Quello che invita a fare anche gli esperti riuniti al congresso ICAR, da cui abbiamo appunto presi questi dati qua a Milano. Il congresso è sicuramente un'occasione per parlare di cura, ma soprattutto di prevenzione e dell'importanza di sottoporsi al test. In questo modo si eviterebbe di arrivare alla diagnosi quando si è un passo da sviluppare la forma conclamata della malattia. Ecco perché ICAR, e voglio sottolinearlo e invitarvi ad approfittare di questa occasione, offre la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido per HIV. Si tratta di un test anonimo, gratuito, si basa su un prelievo salivare tramite un tampone, è un test rapido, indolore, in 20 minuti rileva la presenza di anticorpi HIV e gli esperti suggeriscono che è bene effettuare il test entro massimo 3 mesi dal momento del presunto contagio. Per saperne di più vi segnaliamo due siti: www.hivnonfermiamoci e oppure andare direttamente sul sito di ICAR 2016. Allora, buone nuove invece per i futuri Federer Nadal. Secondo uno studio di ISICO, che è l'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, giocare a tennis non farebbe male alla nostra schiena. Quindi ci sono tante mamme spesso preoccupate che pensano che sia uno sport che non sia completo, che sviluppi solamente una parte del corpo, e quindi invece gli esperti hanno cercato di vederci più chiaro. Adesso c'è anche un nuovo modo di giocare a tennis, le racchette sono più piccole, si fanno anche esercizi di potenziamento, quindi la schiena è salva. Se invece avete male di schiena, andate sulle nostre pagine e trovate le puntate che abbiamo dedicato alla schiena e soprattutto come intervenire quando c'è un dolore acuto. Una segnalazione che parla di musica, che fa bene al cuore, fa bene all'anima. Platone lo affermava in tempi non sospetti, lo conferma oggi anche la scienza, non mancano studi che confermano gli effetti terapeutici della musica, e volevo segnalarvi una bella iniziativa dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. È partito il progetto Notte su un tetto che scotta e per tutto il mese di giugno ci saranno una serie di concerti di musica classica, jazz e rock, dedicati in primo luogo ai pazienti, al personale dell'ospedale, ma anche proprio aperti al pubblico, nell'intento di regalare delle ore di serenità a chi affronta la difficile battaglia contro il cancro, alle persone che ne sono colpite ma anche ai loro familiari, perché dietro ogni persona che è colpita da una malattia, riceve una diagnosi, ci sono anche le persone che gli stanno intorno e che li amano, diventa quindi un problema per la famiglia. E soprattutto queste iniziative servono a far capire che chi è malato ha bisogno di normalità, e queste iniziative vanno proprio in questa direzione. Mancano 2 settimane invece all'esame di maturità, che vedrà impegnati circa 500.000 studenti italiani. Ma anche le medie, ricordiamo anche i piccolini che fanno l'esame di terza media. Poverini. Impegnatissimi. Pensate. Anche loro, il primo esame, perché quello di quinta elementare l'hanno tolto, esatto. E quindi il primo scoglietto, e poi c'è l'esame di maturità. Ci sono persone ancora che se lo sognano. Il Tototema impazza su scuola.net, tanto che è stato realizzato un sondaggio sui possibili argomenti del tema di italiano. Umberto Eco, Einstein, terrorismo internazionale sono in pole position. Tra i favoriti non mancano naturalmente Luigi Pirandelli, 70 anni della Repubblica Italiana e i diritti gay. Nella tesi i nostri studenti sono impegnati in uno studio matto e disperatissimo, Leopardi Docet. E allora, con il nostro esperto che è in linea con noi, Ernesto Di Pietro, osteopata, professore di biomeccanica della colonna vertebrale. Buongiorno professore. Ma buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Pensiamo ai nostri ragazzi che tra poco saranno alle prese con questo esame. Proviamo allora a dare loro qualche consiglio per alleggerire, come si dice, la tensione, anche se un po' di stress aiuta, professore. Assolutamente sì. Allora, come possiamo aiutare i nostri ragazzi a sciogliere quella tensione che si sviluppa proprio lì, sulle spalle, no? Certo, è ovvio che la prevenzione è la cosa migliore, quindi mangiate leggero e sano. E studiate anche. Importante. Ecco, e studiate anche un po', direi, no, professore? Studiate sì, soprattutto se studiate durante l'anno siete un po' più tranquilli e meno tesi. Però è normale, prima dell'esame, magari cercare di fare la notte per tutte le cose, le ultime cose che mancano, l'ansia, eccetera. Questo cosa comporta? Un sonno terribile e tantissima stanchezza che notiamo con queste tensioni fortissime a livello della zona cervicale. La cosa importante è, quando studiate, ogni massimo 20 minuti staccate un attimo e fatevi una passeggiatina nella stanza, arieggiate la stanza, quindi tanto ossigeno, ossigenate tanto, perché l'aria viziata non fa bene, soprattutto adesso che speriamo torna il caldo, e quindi questo è molto importante. Massaggiare sempre la base della nuca è molto importante. Una cosa importante per cercare di rimanere svegli. se facciamo le nottate. Ecco, che un consiglio che va per sì. I ragazzi a cui cade la palpebra sui libri, ma anche a noi quando magari no, davanti siamo a una conferenza oppure a teatro e cala la palpebra. Professore. Allora, quella della conferenza non sentiamoci in colpa, forse è colpa di chi sta parlando, che è un po' noioso, ma tolto questo, per aiutarci abbiamo sempre bisogno di far girare il sangue, quindi abbiamo bisogno di dare la nostra attenzione attraverso, non dico arrivare al dolore, ma per esempio io ho questo trucco per me, quando capita, cerco di farmi solletico. Allora, iniziate a farvi il solletico perché così ci si risveglia. Dopo il GR riprendiamo rapidamente il collegamento col professor Di Pietro per altri suggerimenti. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, puntata molto ricca. Esatto, Deborah. Con anche sorpresona che tra sorpresona, poco... anche sì, per noi. Non ce l'aspettavamo, esatto. Allora, in linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Ernesto Di Pietro che abbiamo traghettato nel GR. Buongiorno e ribuongiorno prof. Buongiorno ancora. Allora, la situazione è abbastanza complessa. I ragazzi si stanno preparando alla maturità, meno male, scrivono in molti ascoltatori dicendo finalmente questi ragazzi si devono impegnare, non tutelateli troppo, troppo mammismo, eccetera. Sì. Faranno la maturità anche loro, vedremo se sono maturi, nel frattempo si può dare loro qualche suggerimento che magari è utile anche ai genitori di questi ragazzi. Professore. Assolutamente sì, vediamo come aiutarli a rimanere svegli quando faranno la nottata prima degli orali, che sono esercizi che servono anche chi sta guidando e ricordiamoci che ogni tanto si deve fermare e arieggiare il proprio cervello, così... preveniamo tanti incidenti. Allora, dicevo prima del TG che il solletico, il dolore appena appena aiuta. Vediamo un esercizio senza dare dolore. Siamo seduti, siamo davanti al computer, ci sta arrivando il colpo di sonno, l'abbiocco. La prima cosa da fare per preparare l'esercizio è un massaggio sul cuoio capelluto, proprio spostando la pelle. Mm-hmm. Proprio spostando un la po' pelle. Scollandola, sì. Sì, come usare una la mano di come scalp. Se fosse un ragno, sì. E proprio, ecco, fare questo deve essere molto molto piacevole. Dopo aver fatto questo, alziamo il braccio destro verso l'alto e con la mano destra afferriamo l'orecchio sinistro. Sì. Spalanchiamo la bocca, ok, e spingiamo verso destra il cranio, quindi la testa che abbiamo afferrato con la mano destra. Abbiamo afferrato l'orecchio sinistro e spingiamo il cranio verso destra. Ci siamo? Sì. Inclinando la testa verso destra. Non si stacca, vero prof? No, dobbiamo sentire quasi un piccolo fastidio. È una sorta di stretching, di allungamento. Assolutamente. Accompagnato dal braccio. E facciamo per tre volte dall'altra parte. Consiglio importantissimo, quando siamo davanti al computer tante ore, ripeto, massimo 20 minuti dobbiamo per forza fare un girettino, se no poi non riusciamo per ossigenare anche il cervello. Sì. Mettete una matita tra i denti, così non digrignate i denti e vi viene meno sonno. Grazie professor Di Pietro, alla prossima a con voi. Dei consigli per... Ho cercato di memorizzare questo esercizio, no, però adesso lo devo riassumere un poi attimo. Poi te lo faccio, me lo ti mostri. Faccio riassunto. Un piccolo riassuntino. Grazie al professor Di Pietro. Grazie molte. Faremo tesoro dei suoi suggerimenti e li trasferiremo a tutti i ragazzi che sono in odore di maturità che conosciamo. Crepi il lupo per loro. Prossimo argomento. Senti, ma quando tu ti sei sposata ti ha accompagnato la marcia nuziale? Certo, non sì, mi ricordo, tutta però così. Penso di sì. Allora, è in vigore la legge Cirinnani, abbiamo parlato molto rapidamente anzi più approfonditamente in qualche puntata precedente. Ieri rapidamente abbiamo toccato l'argomento anche nella nostra rassegna stampa, perché da ieri era prevista la prima prova per gli uffici comunali. Parleremo proprio di questo oggi, anche perché al momento solo di questo possiamo parlare per fare il punto della situazione, visto che ancora mancano all'appello un po' di tasselli. Per esempio manca il provvedimento con le istruzioni sulla tenuta dei registri nell'archivio dello Stato civile, dovrebbe però arrivare in qualche giorno. È insomma una legge che è partita un po' monchetta dal Viminale, dal Ministero dell'Interno, come riportava anche il Sole 24 Ore sabato scorso. Arriva un consiglio di aspettare, per esempio per le coppie di omosessuali che vogliono sottoscrivere l'unione civile e sono invitate a non correre in comune per la celebrazione, e quindi il Viminale come dire ipotizza che le prime unioni, secondo la nuova disciplina legislativa, non potranno essere celebrate prima di fine agosto, proprio perché appunto ancora alcuni aspetti mancano. E però intanto nei comuni le richieste stanno già arrivando, così abbiamo voluto un po' indagare sulle criticità che stanno riscontrando le coppie che vogliono unirsi con le nuove regole e le risposte che stanno dando i funzionari comunali. E l'ufficio anagrafe in queste ore è in assoluto il più ricercato, per cui diamo il benvenuto a Renzo Calvigioni della NUSCA, l'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe. Buongiorno Calvigioni e benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, tra l'altro, dottor Calvigioni non lamentava, però insomma diceva: guardi, se proprio devo dire, sono in questo momento talmente pieni di carico di lavoro e di adempimenti da rispettare che possiamo dire che gli uffici della pubblica amministrazione più trascurati in assoluto in questo momento siano proprio gli uffici anagrafe. Dottor Calvigioni, oggi lanciamo anche questo grido d'allarme di sostegno per la vostra categoria, anche perché stanno facendo tantissimi corsi di formazione per documentarsi al massimo sulle nuove norme e purtroppo scoprono anche loro un po' tutte le magagnette, chiamiamole così. Calvigioni, state monitorando la situazione? State già avendo un'idea di quante coppie stanno cominciando a bussare alle vostre porte per unirsi civilmente? Ma guardi, se dobbiamo parlare di un quantitativo è difficile da parlare, è difficile poter indicare un quantitativo. Però la cosa certa è che sicuramente delle richieste stanno arrivando un po' in tutti i comuni, specialmente c'è molto interesse per quello che riguarda le unioni civili, perché effettivamente è una norma che probabilmente è attesa da molto tempo da chi si trova nella situazione di poter stipulare un'unione civile, di poter registrare un'unione civile, quindi è una richiesta sicuramente più viva da questo punto di vista, certamente anche le convivenze di fatto, però diciamo che forse lì era già una situazione che c'è, quindi in molti casi una situazione che c'è e che c'è solo da registrare in maniera diversa, quindi forse c'è una maggiore tranquillità da parte dei cittadini, mentre certamente la parte delle unioni civili è forse più sentita. Senta, se mi consente una battuta, quella marcia nuziale che avete fatto suonare l'avete preparata detto, anche voi agli non uffici è detto anagrafe. Che potremo farla suonare per le unioni civili, perché in realtà la cosa subito diversa che balza subito è che manca il rito, è che manca la celebrazione, manca il rito, e quindi toccherà un po', ci sarà qualche comune che lo inventerà, qualche comune che darà massima risonanza, ma anche qualche altro comune che si limiterà a quello che dice la legge. Lo spiegava molto. Nessuna cerimonialità. Infatti, proprio il Sole lo ricordava sempre in questo pezzo che ho segnalato di sabato scorso, che i comuni stanno spiegando alle coppie che vogliono fissare la data che è meglio non correre troppo, perché oltre alle istruzioni sulla registrazione dell'unione manca proprio anche la formula del rito, per cui non si può accompagnare un bel nulla con nessuna colonna sonora. Allora, Calvigioni, andiamo un po' a tutto quello che manca, come dicevamo prima, e soprattutto a voi queste mancanze come le state superando, come state gestendo. Questo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrebbe arrivare, che cosa dovrebbe portare? Ma guardi, questo decreto dovrebbe dire effettivamente dove avviene la registrazione delle unioni civili, quindi è uno strumento operativo tecnico che la stessa legge richiede come necessario per poter effettuare le registrazioni. In sostanza ci deve dire quale registro istituire, se c'è da istituire un registro, e tutte le modalità operative con le quali questo dovrebbe avvenire. Quindi è un passaggio sicuramente fondamentale per poter rendere pienamente operante la normativa e poter fare in modo che i cittadini che si presentano di fronte all'ufficiale dello Stato civile possano procedere alla costituzione della loro unione e l'ufficiale di Stato civile a registrarla. Quindi senta, però Calvigioni, mi scusi, no, la interrompo subito perché non ho ben capito se è lo stesso modulo o sono modelli diversi, perché io ho sentito parlare sia del registro in cui inserire appunto le unioni civili, ma anche il modello in cui dichiarare lo stato di convivenza. Sono la stessa stessa cosa o sono uno prima dell'altro? Cioè il modello... Assolutamente no. Assolutamente no, sono due cose completamente diverse, previste da due procedure diverse. La legge disciplina due cose molto diverse. La registrazione, la costituzione delle unioni civili, che riguarda solo le coppie omosessuali, quindi solo le coppie di persone dello stesso sesso, e disciplina anche la registrazione delle convivenze di fatto, che possono essere coppie dello stesso sesso, ma anche coppie eterosessuali. E sono queste quelle che devono, ma entrambe le tipologie, diciamo, di coppie devono comunque presentare il modello di dichiarazione dello stato di convivenza? No, la coppia che si registra, la coppia dell'unione civile, deve proprio arrivare ad una costituzione dell'unione civile da farsi di fronte all'ufficiale dello Stato civile, e qui manca il DPCM. Okay. E quindi questo è l'aspetto sul quale per il quale non possiamo procedere. Mentre le convivenze di fatto sono in vigore da ieri a tutti gli effetti, quindi qualsiasi mancanza in qualche modo deve essere superata, perché non c'è prevista una norma di rinvio. Anzi, le dirò di più, che proprio al fine di dare agli ufficiali di anagrafe anche gli strumenti operativi per registrare le convivenze di fatto, ieri in ANUSCA, cioè nell'associazione degli ufficiali di Stato civile a Castel San Pietro, si sono riuniti un gruppo di esperti di anagrafe che hanno predisposto alcuni modelli da diffondere agli ufficiali di anagrafe, proprio per consentire la registrazione delle unioni, delle convivenze di fatto. Senta, ma andrà bene questo? Sono due cose diverse. Ecco, quindi vi siete un po' attrezzati in casa, sì, per gestire in questo momento questa fase di vacazio, praticamente di vacante. Detto questo, il Ministero dell'Interno poi non è che troverà da ridire sul modulo di cui vi siete dotati, lo contesterà e quindi renderà anche non valide le unioni che in questo momento voi state accogliendo? No, queste sono le convivenze. No, queste sono, a parte che ovviamente lo trasmetteremo anche al Ministero dell'Interno, questo modello che abbiamo predisposto, ma queste sono le convivenze di fatto, quindi un'eventuale anche modulistica diversa che fosse successivamente emanata dal Ministero non inficia quanto fosse stato fatto da ieri, perché qui la legge è in vigore da ieri, non ci sono norme di rinvio da questo punto di vista o provvedimenti necessari, quindi il modello poteva anche non esserci e ognuno si deve arrangiare, certo, con i mezzi. Esatto, noi abbiamo cercato di fare una cosa che possa essere utile a tutti gli operatori, come cerchiamo di fare da tanto tempo, insomma. Tra l'altro, sempre in questo articolato pezzo del Sole 24 Ore di Francesca Milano e Giovanni Parente, due brillanti colleghi appunto che si occupano in maniera sempre molto, molto accurata di questi argomenti, raccontava come per esempio la responsabile dei servizi demografici del Comune di Savona, Tiziana Piola, spiegava al Sole che non esistendo un registro in cui inserire le dichiarazioni di convivenza, non potessero ovviamente in comune rifiutarsi di accettare tali dichiarazioni, navighiamo a vista, raccontato, in assenza di istruzione, abbiamo deciso di registrare queste coppie su un foglio Excel. Calvigioni. Ecco, da ieri abbiamo dato questi nuovi modelli proprio per evitare un foglio Excel. Da ieri la Nusca ha messo a disposizione dei propri associati proprio questa nuova modulistica che riguarda questa modulistica, che per ora è una modulistica, diciamo, senza necessità di alcuna approvazione, però soddisfa quello quanto necessario. Da qui si può chiedere l'iscrizione in anagrafe come convivenza di fatto, e abbiamo anche previsto la possibilità che si possa dichiarare poi che la convivenza si è sciolta, quindi abbiamo messo a disposizione questi modelli, come anche abbiamo previsto la possibilità di rilasciare una certificazione di convivenza, quindi ci siamo avete fatto un buon lavoro, esatto. Spero, no, anche perché siamo convinti. No, anche perché poi sono le persone che per prime si confrontano con situazioni anche molto delicate, no, dottor Calvigioni? E so che lei ci teneva molto a raccontarcene una che forse sta gestendo in prima persona in questo momento. Sì, riguarda una coppia, però qui siamo nell'ambito delle unioni civili. Delle unioni civili, forse, quindi c'è questa coppia di omosessuali che vorrebbe formalizzare, non perché vuole naturalmente fare il matrimonio in pompa magna, ma perché hanno una necessità stringente di definire quest'unione. Sì, esatto. Proprio in occasione, vede, noi da circa un mese, forse anche più, stiamo un po' parlando con tanti colleghi per capire, per portare a conoscenza degli operatori questa nuova disciplina e anche per capire quali sono le casistiche che si possono affrontare. E mi è stato proprio sollevato questo caso di una coppia di persone dello stesso sesso che già vivono insieme e che vorrebbero registrare la loro unione, e uno dei due versa in gravi condizioni di salute, sembra che sia veramente, non dico a rischio vita, questo non sono in grado di poterlo dire, ma sembra sia molto grave. Ecco, qui forse anche aspettare il DPCM a aspettare tutto, potrebbe effettivamente per questa coppia certo, arrivare troppo tardi, diciamolo chiarezza. L'unione civile per queste due persone, per farlo capire a quelli che sono ancora un po' rimasti indietro rispetto all'importanza di questa norma, dottor Cavigioni, che cosa significherebbe per esempio per uno dei due poter stabilire anche trattamento sanitario? Gli stessi diritti, praticamente ci sono quasi gli stessi diritti e doveri derivanti dal matrimonio, vengono richiamati gli stessi diritti nella legge del matrimonio, tranne alcuni aspetti particolari, tranne elementi di secondo piano, quale potrebbe essere quello della fedeltà. Per il resto i diritti civili ci sono tutti quelli derivanti proprio dal fatto che si costituisce una nuova coppia che ha un nuovo status, che è quello appunto derivante dall'unione civile, alla stessa stregua di una coppia regolarmente coniugata, anzi su alcuni aspetti ancora più avanti. Pensiamo alla disciplina del cognome, che è molto innovativa da questo punto di vista. Perché? Ce lo spiega? La coppia può costituire, la coppia che si costituisce come unione civile può scegliere il cognome comune, che diventa in sostanza come una sorta di cognome di famiglia. Quindi una delle parti decide di assumere il cognome dell'altro e questo diventa una vera e propria sostituzione di cognome, un vero e proprio cambiamento di cognome, che è più avanti rispetto a quello che possono fare le coppie regolarmente coniugate. Nel matrimonio la moglie può aggiungere al proprio cognome maritale, ma questo viene fatto come utilizzo del cognome, non come un vero e proprio cambiamento di cognome. Mentre da quest'altra parte c'è proprio una disciplina, dichiarazione di fronte all'ufficiale dello Stato civile, che lascia prevedere un vero e proprio cambiamento di cognome. Quindi è molto più avanti, è molto più importante. Cavigioni, prima di salutarla e poi prima di salutare anche il prossimo ospite che di sua spontanea volontà ha composto l'800240024, questo ci fa molto piacere, adesso vi sveleremo chi è. Volevo commentare con lei questa notizia apparsa ieri su Repubblica, che ritornava appunto sulla legge Cirinnà, la nuova norma che oltre ad istituire le unioni civili appunto per le coppie omosessuali regola anche le convivenze di fatto, riconoscendo solo le coppie che si iscriveranno al registro istituito in anagrafe, e per l'iscrizione con la legge sono necessarie alcune condizioni, due soprattutto: identità di residenza e stato civile libero. C'è stato però un pronunciamento, un'ordinanza del Tribunale di Milano datata 31 maggio, secondo la quale lo status di convivente di fatto deve essere riconosciuto anche a chi ha una residenza diversa dal partner o è in attesa di divorzio dall'ex. Che significato ha questa ordinanza? Sicuramente dà un indirizzo un po' diverso da quello che esce dalla legge. La legge sembra indicare chiaramente che il matrimonio anche con altre persone sia preclusivo alla possibilità di costituire un'unione civile, di consentire la registrazione della convivenza di fatto. Quindi sembrerebbe che quello che dice il Tribunale di Milano sia un po' in contrasto con la nuova disciplina normativa, quindi forse c'è questo rischio che la nuova disciplina in qualche caso possa rappresentare, anziché un'agevolazione, possa creare un nuovo ostacolo, ma qui bisognerà vedere un po' come sarà anche l'interpretazione della stessa giurisprudenza nei primi casi che si porranno. Però certamente le due cose, qualche dubbio e qualche perplessità la sollevano, insomma, sicuramente. Senta Cavigioni, prima di salutarla, un ultimo appello al governo affinché appunto si velocizzi nell'emanazione di questo provvedimento. Peraltro adesso non sarà stato certamente una priorità, visto che erano tutti anche impegnati in campagna elettorale per queste amministrative, quindi qualche cosa è rimasta un po' indietro, però devono sbrigarsi, altrimenti veramente questa legge così importante parte monca. Di che cosa avete bisogno subito? Noi abbiamo bisogno con urgenza del DPCM, quindi che quanto prima che esca questo provvedimento e che si completino tutti i passaggi. È previsto poi sempre il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, esatto, per rendere pienamente operativo questo. E abbiamo bisogno, me lo lasci dire alla fine, che gli uffici demografici siano messi in condizione di lavorare un po' meglio. So che siete veramente formati tantissimo per trovarvi pronti a questa nuova sfida, farvi trovare pronti. Sì. La Nusca su questo sta svolgendo un ruolo da 35 anni di formazione e di cura della professionalità degli operatori. Qualche volta tutto questo si scontra con una realtà difficile in cui gli operatori sono ridotti davvero ai minimi termini e gli uffici sono in gravi difficoltà di funzionamento. Nonostante c'è una grande volontà, le assicuro, una grande volontà, girando scopro tanti colleghi che hanno una grande voglia di far bene, quindi direi che mettiamoli in condizione di far bene, ecco, questo sarebbe il desiderio più grande. Infatti. Calvigioni, le voglio presentare un sindaco che salutiamo con grande simpatia, perché appunto, come dicevo prima, dopo aver sentito la notizia che lo riguardava, che abbiamo dato all'inizio della trasmissione, lui ha composto il numero, dice: non vorrei che l'aveste raccontata un po' come vi pare, no, cosa che non è stata. Lo vuoi presentare tu, Nicoletta? Allora, mi piacerebbe giovane sindaco. Mi piacerebbe avere anche un po' una musichetta di fondo. È un giovane sindaco che segue Cuore Denari, quindi infatti, è un sindaco che sicuramente ha una marcia in più. A buon gusto. Allora, è in linea con noi Raffaele Veneziani, sindaco di Rottofreno. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sindaco. Ma che bella sorpresa che abbiamo fatto a lei e lei che ha fatto noi, insomma ce la siamo scambiati. Speriamo di non aver violato le norme sulla par condicio chiamandolo, perché però è stato confermato praticamente lei, quindi vabbè, non adesso dovremo parlare con il nostro caporedattore che ci istruisce sempre su questo. Noi che non ci occupiamo mai di politica, giusto oggi, no? Abbiamo deciso di farlo. Chiamato noi. È stato lui che si è candidato. È lui che ci ha voluto. Allora, noi siamo... sindaco, noi abbiamo sorriso un po' sulla vicenda dei suoi concittadini che volevano votare ad ogni costo e che però sono arrivati con qualche minuto di ritardo. Voleva precisare qualcosa su questo episodio? No, intanto preciso che sfortunatamente non stavo seguendo quel momento della trasmissione. Sono stato poi chiamato da diversi vostri ascoltatori che mi hanno detto contatta Radio 24, anche perché io ero presente insieme agli altri candidati a sindaco in quel momento. Devo dire, ci tenevo a dare un segnale di speranza, perché in un momento in cui si parla di assenteismo al voto, questi invece signori ci tenevano tanto, infatti avevano da tempo programmato questa gita, tant'è che erano partiti tutti con la tessera elettorale nella borsa e avevano concordato con l'autista che il punto di partenza e di arrivo sarebbe stato il alle seggio. Scuole, proprio per poter il seggio votare. Elettorale. Effettivamente c'erano due pullman di due gite differenti nella giornata di domenica. Uno l'abbiamo visto arrivare per tempo e ci chiedevamo tutti dove fosse finito il secondo. Non si era rotto il freno, sindaco, e il problema è stato proprio un ritardo. I freni erano assolutamente buoni. Che simpaticone. Li abbiamo visti arrivare anche a velocità molto sostenuta, devo dire. Il pullman ha proprio inchiodato vicino alle scuole e abbiamo visto questa scena, devo dire, anche un po' dolorosa, se devo dirla. Sarà un dispiacere. Però il tema è stato provato a correre certo. Per arrivare al seggio. Sindaco, il presidente di quel seggio è stato severo, integerrimo, insomma, non ha voluto sentire ragioni, era tardi, era chiuso, erano stanchi e quindi, secondo lei si poteva chiudere un occhio dopo tre minuti? Allora, intanto lì alle scuole c'erano 7 sezioni elettorali ed è stata una scelta condivisa da tutti, anche perché purtroppo loro sono arrivati effettivamente alle 23.05, ma erano già stati trasmessi i fonogrammi con il dato definitivo dei votanti. E quindi non andava bene, non avrebbe avuto nessun valore, insomma, il loro voto, il loro pronunciamento. Esattamente, anzi avrebbe rischiato di invalidare poi la tornata. Essendo già partito il fonogramma non era tecnicamente possibile riaprirlo. E quindi, insomma, probabilmente se il fonogramma non fosse ancora partito sarebbe stato tutto più semplice. Senta, sindaco, come si chiamano gli abitanti di Rottofreno? Rottofrenesi. Quindi, Rottofrenesi, non ne frenati, esatto. Eccetera. Sindaco, un'ultima domanda per rimanere nei temi di Cuore Denari, visto che lei così gentilmente ci ha chiamato, un sindaco molto presente nei problemi appunto della sua comunità, si prende a cuore anche le vicende di chi non riesce a votare, comunque lei è andata bene. La legge Cirinà, come la state gestendo in questo momento agli uffici anagrafa appunto del vostro comune? Avete già avuto delle richieste? La mancanza di questi registri appunto per la registrazione delle unioni, come la state gestendo? C'è un po' di disorientamento, nel senso che stiamo aspettando da un lato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dia attuazioni alle unioni civili. Effettivamente nella giornata di domenica, complice anche l'apertura straordinaria degli uffici, con un'addetta dell'ufficio di Stato Civile abbiamo provato a fare un approfondimento della legge. Sicuramente nei comuni più piccoli è particolarmente necessario avere immediatamente disposizioni attuative e modulistica certa, perché se un comune strutturato può in qualche modo anche auto-organizzarsi in attesa dell'emanazione dei provvedimenti poi di dettaglio, i comuni piccoli spesso non hanno competenze, risorse umane tali da poter essere dedicate ad affrontare un problema come questo. Quindi urge il provvedimento che auspicava prima anche Calvigioni. Assolutamente, quindi grazie. Chiediamo al governo di non lasciarci soli, ma di darci istruzioni, poi esatto. È una legge dello Stato e siamo venuti a rispettarla e la rispetteremo. Temo che questi qua aspetteranno almeno altri 15 giorni l'esito del ballottaggio. Grazie Raffaele Veneziani, sindaco di Rottofreno. Peraltro, io voglio dirlo, 34enne, ci è piaciuto molto questo sindaco, giovane, queste sono le nuove leve della politica che vogliamo. Nicoletta, che dici? Cuore denari oggi si sbilancia anche in questo messaggio. E ci piace fare così. Ringrazio anche Renzo Calvigioni, a Massimo da Milano, che ci ha scritto il suo caso, voleva intervenire in diretta, non ce la facciamo. Raffaele, no, Massimo, cuoredenari@radio24.it, le daremo una risposta a microfoni spenti. Intanto rapidissimi con la borsa e poi il prossimo approfondimento di cuore, soprattutto di cervello, altro che cuore. È vero, ma Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento, vi presenta Cuore e denari. E come c'è da fare, tanto, forse troppo, abbiamo un anno sulle spalle, le vacanze sono ancora lontane e questo è un periodo piuttosto caldo, non mi riferisco naturalmente al clima, ma alle scadenze, agli impegni. Deborah ogni giorno ce ne ricorda qualcuno. Eh sì, quelli fiscali soprattutto. Le date da ricordare, i moduli da compilare, incarichi da portare a termine, esami da preparare, quindi non sorprende che molti di noi si sentano affaticati, abbiano la sensazione che il cervello stia andando in fumo, sia scarico. Si dice: non ragiono più dalla stanchezza, ho il cervello fuso, in tilt, in pappa, in cortocircuito, sono bollito, brasato, svanito, svampito. Voi che dite? E soprattutto che fate? Qual è la funzione cognitiva che quando siete stanchi o sotto pressione ne fa più le spese? Pensateci bene, perché ce n'è una sicuramente che più delle altre va in riserva e che vi segnala che siete, per così dire, arrivate un po' al capolinea, che dovete riposarvi un po', prendervela magari un pochino più comoda o organizzarvi diversamente, perché questa potrebbe essere anche la strada. Ad esempio, c'è chi fa fatica a concentrarsi, c'è chi dimentica le parole, le date, gli appuntamenti, è come se la funzione agenda fosse andata un po' in tilt, e c'è chi invece si sente la testa vuota, senza un barlume di creatività, nessuna idea. Allora, se vi riconoscete, 800 24 00 24, pensateci bene che cosa cala in questo momento: l'attenzione, la memoria, la creatività, il ragionamento. Però diteci una cosa alla volta, piano piano, perché di tutto noi si occuperà un grande esperto che è tornato a trovarci, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei, Nicoletta e Deborah, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Buongiorno. È stanco anche lei? Sì, sono un po' stanco, ma pronto per ricominciare. Bene, vedi che il pensiero positivo, bisogna essere così, a Ferrari. Allora, tra l'altro, professor Iannoccari, a tirarci su arrivano anche i risultati di una ricerca che ci dice che essere molto impegnati stressa, quello è vero, ma aiuta. Insomma, un'agenda fitta di impegni migliorerebbe le capacità cognitive. La ricerca arriva dal Texas, questi neuroscienziati hanno studiato oltre 300 volontari con età compresa tra i 50 e 89 anni, sono arrivati alla conclusione che insomma gli impegni mantengono vivo il cervello, quindi a parte un po' di stress che naturalmente la gestione degli impegni comporta, il cervello ci guadagna. Ma professor Iannoccari, ci aiuti un po' a leggere questa ricerca, lei è d'accordo? Vale per tutti o ci sono dei cervelli più allenati, per così dire, più resistenti alla fatica di altri? Per capire meglio come stanno le cose, possiamo assimilare il cervello al fisico. C'è chi ha un fisico che regge bene la fatica, chi no. E certo. C'è chi se la cava meglio con un certo tipo di attività, ad esempio il tennis piuttosto che il calcio, e meno con altre. Chi è più allenato e chi meno. Insomma, in linea di massima, il cervello, così come il fisico, può essere allenato, ma attenzione a non sovraccaricarlo. Avere l'agenda piena È una condizione di per sé attivante. Sì, il nostro organismo, perché? Anche, certo. Il nostro organismo si adopera mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Tuttavia, però, se si supera una certa soglia, può essere controproducente. E ciò che avviene soprattutto se si vogliono fare più cose contemporaneamente. Il famoso multitasking. Il famoso, sì, è la parola che usano gli inglesi per dire che si fanno più cose contemporaneamente. Il problema è che il nostro cervello non funziona così. Non è programmato per lavorare in parallelo, funziona in modo seriale. Questo diciamo, ormai è emerso da tantissime ricerche condotte all'MIT piuttosto che alla McGill University. Addirittura ci sono studi che dicono che lavorare continuamente in modo, diciamo, continuato in multitasking può creare dei danni, e su questo purtroppo il gentil sesso è più esposto. Vedi, anche questa. Però, professor Iannoccari, quindi la ricerca conferma quello che già ci dicevano le nostre nonne. Mi spiace tirarle in ballo, ma alla fine quanto erano sagge nel dirci che per fare le cose bene bisogna farne una alla volta. Insomma, non bisogna intasare il cervello e costringerlo a continui straordinari senza dargli il tempo di riposarsi e di ricaricarsi. Quindi, se non si può fare a meno di rimanere impegnati su più fronti contemporaneamente, perché purtroppo la vita oggi ci chiede di fare proprio questo, allora noi cerchiamo di attrezzarci, facciamo in modo ad esempio che questo non diventi un'abitudine. Poi le regole, le indicazioni per salvarci un po' ci sono, le conosciamo tutti, riposare bene perché il sonno nutre anche il cervello. Poi anche il professor Ernesto Di Pietro prima suggeriva l'utilità, no, di fare delle pause, magari approfittiamo per fare due passi, la classica boccata d'aria, no, che rinfresca anche il cervello. E provato anche che faccia bene ascoltare musica, professor Iannoccari. Insomma, tutto quello, il cervello è un buon gustaio, gli piacciono le cose belle. Gli piacciono le cose belle, per nostra fortuna è così. Intanto il riposo rende il cervello più efficiente, le pause lo rigenerano, i due passi lo distendono, l'ossigeno lo fa lavorare meglio e la musica sincronizza il lavoro delle diverse aree cerebrali. Quindi la nonna aveva ragione. Bene, santa nonna. E ciò è particolarmente vero quando si è, per esempio, al lavoro. Quando si è al lavoro, addirittura il lavoro, diciamo, in multitasking o in multishifting, cioè fare più cose una dopo l'altra, può addirittura affossare i bilanci. Ci sono state delle ricerche che hanno rilevato come lavorare in modo, diciamo, veloce, passando da un compito all'altro, facendolo più contemporaneamente, può arrivare a far perdere circa 20 miliardi di euro all'anno. 20 miliardi di euro, Deborah. Vedi, le antennuzze di Deborah si sono subito immediatamente messe sull'attenti. Quindi mi riposo così guadagno, insomma. Fare una cosa per volta. Cioè, noi immaginiamo che fare più cose in rapida successione è un po' come muoverci, spostarci in diverse stanze. Se noi stiamo lavorando in una stanza e poi dobbiamo andare in un'altra stanza a fare un altro compito, c'è un passaggio che ci fa perdere del tempo e ovviamente ci stanca. Immaginiamo, certo, una continua rotazione tra questi ambienti diversi in modo continuato. Meglio lavorare in una stanza, finire tutto e poi passare in un'altra e così via. In questo modo si è calcolato che si riduce lo spreco di tempo di quel periodo refrattario che si ha negli spostamenti, che può arrivare addirittura a sommarsi in 2 ore di tempo perso ogni giorno. Caspita, una buona indicazione. Allora teniamola presente, cerchiamo di ricordarla. A proposito di ricordo, tra poco ci collegheremo con un'esperta che ci parlerà dei cibi, 7 cibi, i super alimenti, che aiutano a potenziare la nostra memoria. Ma prima abbiamo 2 ascoltatori che vogliono avere un consiglio, un'indicazione dal professor Iannoccari. La prima ci scrive via WhatsApp, è un'amica, e Claudia si chiama, e ci scrive che quando è stanca, ovvero scoppiata, se ne accorge perché parla in maniera sgrammaticata e fa molta fatica a seguire un ragionamento, e poi per recuperare ci mette un po'. Professor Iannoccari. Questi acciacchi dovuti alla stanchezza sono attribuibili alle cosiddette funzioni esecutive, cioè quella funzione che ci consente di organizzare, pianificare e svolgere un compito. Essendo una delle aree più recenti a livello evolutivo, per capirci è posizionata dietro, diciamo, la fronte, è quella che funziona, diciamo, subisce subito l'attacco della fatica, per cui costruire le parole oppure comprendere un ragionamento viene compromesso dal calo di questa abilità. Cosa si fa? Un suggerimento per gli ascoltatori che si ritrovano un po' descritti nel caso di Claudia? Allora, innanzitutto, quando ci si stanca è necessario crearsi delle pause o comunque delle oasi di rigenerazione. Questo può avvenire anche con pochi minuti, ecco, la classica pausa caffè è molto utile per riprendere, per risalire la china. Meglio tra le 9.30 e le 11.30, vero? Quando sì. Il livello del cortisolo, l'ormone che ci tiene svegli, fisiologicamente cala per prepararsi poi al picco successivo. Quindi... Esatto. C'è anche l'orario che aiuta. Quindi un caffè, due passi, non è necessario schiacciare un pisolino, ma fare ripetutamente queste, no, queste piccole pause che sono rigeneranti, un po' come quello che chiedono agli atleti quando li preparano. Poi hanno una giornata in cui non si allenano, per dare modo all'allenamento, perché l'allenamento continua anche quando si è a riposo, e così il nostro cervello. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Le buone abitudini sono anche queste. Certo, poi abbiamo Piero della provincia di Bari e poi i 7 alimenti per aiutare la nostra memoria. Secondo voi riuscite magari a scrivere anche voi un elenco? Provate. Cuore e denari. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione. Attenzione, concentrazione, ultima parte di Cuore Denari, parliamo del nostro cervello in questo momento, in questo periodo dell'anno, magari lo sentite un pochino più affaticato, avete una certa difficoltà a svolgere i compiti, a rimanere attenti, concentrati, vi sentite un po' rallentati, ci sono i consigli per voi del professor Iannoccari che tra l'altro scrive anche sul nostro Daily Lab, quindi andate a leggervi i consigli molto utili e pratici. Professor Iannoccari, andiamo a rispondere a Piero dalla provincia di Bari e poi ci sediamo a tavola con la prossima ospite. Piero, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io ho chiamato perché quando ha esposto i casi... Lei si è ritrovato. Sì, no, ho alzato la mano, perché ho alzato la mano come per dire eccomi. E mi sono riconosciuto in tutti praticamente i casi che ha elencato, e la cosa un attimo più, diciamo, più brutta e che a fine giornata ci si sente un attimo inconcludenti, lo so. Perché non si è riusciti a fare, Tutto quello che ci eravamo prefissi di fare. Sì, uno diceva bene, parto tra un'ora, parto tra due ore, parto fra tre ore, cioè nel senso adesso carburo, però allora, non si Piero, lei è arrivato? Lei è arrivato nel posto giusto, al momento giusto, il professor Iannoccari sicuramente ha per lei due consigli mirati, magari uno o tre, ma comunque che possono aiutarla a iniziare un po' a cambiare il passo. Professor Iannoccari. Bene, allora, Piero diceva che arriva a fine serata e ha la sensazione di essere inconcludente. Innanzitutto è bene organizzare l'agenda in modo realistico. Obiettivi non troppi, ma partendo da tre. Decidere di fare tre cose durante la giornata, metterle nero su bianco e poi depennarle quando si sono realizzate. Se si riescono a fare più cose, dopo si è soddisfatti. Il problema è se se ne mettono tanti e se ne riescono a fare di meno ci si sente frustrati. Questo. Poi per attivarsi valgono le regole auree che diceva la nonna, per cui vanno benissimo, ma possiamo anche attivare la nostra mente per esempio con degli esercizi di velocità, perché ricordiamo che il cervello ha bisogno di tre cose, tre pilastri fondamentali: accelerare l'elaborazione delle informazioni, mantenere l'attenzione concentrata il più a lungo possibile e poi ampliare e rinforzare la memoria a breve termine. Quello che possiamo fare per attivare la mente è dare dei booster, delle accelerazioni. Ad esempio, leggere una parola e ripetere, fare lo spelling al contrario. Oppure contare rapidamente all'indietro. Cioè, quindi casa e poi A-S-A-C. Okay. Esatto, e si può fare così con parole prima di 4, poi di 5, poi di 6 lettere. In questo modo che succede? Che noi allineiamo le capacità cognitive a fare quello che vogliamo noi, evitando quel fastidioso vagabondaggio che non ci consente invece di attendere ai nostri compiti. Infatti, quando la mente va altrove, noi track con le parole la riportiamo a casa. Esatto. Allora, speriamo che il nostro ascoltatore faccia i compiti. Nel frattempo noi ci sediamo a tavola. Buongiorno alla dottoressa Elisabetta Menna, ricercatrice di Humanitas e del CNR. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta. Allora, in questi ultimi minuti di trasmissione, ma poi naturalmente vi metteremo anche delle indicazioni sulle pagine di Cuore Denari, parliamo di dieta, parliamo di stile alimentare, c'è un crescente interesse nei confronti dell'alimentazione, soprattutto nei confronti del ruolo preventivo e curativo del cibo. Ho anticipato, dottoressa Menna, che lei ci avrebbe svelato l'elenco di 7 alimenti capaci di proteggere e di potenziare la memoria, i magnifici 7, ma prima ci spieghi in base a quali caratteristiche un cibo, un alimento viene considerato buono per proteggere un organo, restituire benessere o ancora potenziare una funzione cognitiva, come nel caso di oggi, la memoria. Esatto, sì, è vero. Negli ultimi anni, infatti, diciamo, è emerso questo ruolo dell'alimentazione come funzione di prevenzione e per la riduzione, diciamo, del rischio di malattie anche importanti, malattie croniche, sì, che quindi si sviluppano nel tempo e, diciamo, vengono percepite come malattie anche pesanti dai, diciamo, da chi ne è affetto. E ci sono stati, diciamo, negli ultimi anni in effetti molti studi che hanno suggerito come la dieta mediterranea sia considerata, diciamo, la migliore dieta in assoluto e sia in effetti associata a un ridotto rischio di contrarre non solo malattie cardiovascolari come l'infarto, l'ictus, ma anche malattie neurodegenerative, quindi malattie che sono caratterizzate da ridotte potenzialità cognitive, riduzioni della memoria, certo, dell'attenzione, della concentrazione. E quindi, diciamo, in effetti questa cosa è vera. Che cosa hanno in comune questi alimenti? In realtà non hanno in comune, diciamo, dei componenti, ma hanno in comune proprio l'effetto, cioè si accomuna, diciamo, li accomuna il fatto che hanno diciamo effetti benefici. E se uno vuole cominciare, diciamo, a elencarli, ecco, diciamo, iniziamo allora, risvegliamo il picco della mirandola che c'è in noi e quindi non facciamoci mancare questi 7 alimenti. Adesso la dottoressa Menna ce li illustrerà brevemente perché abbiamo un minutino di tempo e poi naturalmente andate sulla pagina di Cuore Denari. Allora, professore, dottoressa Menna, sì, questa è proprio, diciamo, una lista della spesa. Brava. In Humanitas abbiamo chiamato brain friendly, cioè amica del cervello, e che quindi quando andiamo al supermercato dovremmo proprio, diciamo, cercare di mettere nel carrello queste cose. Noi siamo pronti, andiamo. Ok, allora, prima di tutto diciamo le uova, il germe di grano, le arachidi e poi il pesce come il merluzzo, i semi di girasole, diciamo, sono tra i cibi molto molto buoni per il cervello perché contengono colina. Okay. Che cos'è la colina? La colina è un coenzima essenziale, questa magari è una parola difficile. Ma noi, però... ma noi di questo nell'approfondimento del contenuto, perché questi alimenti ci fanno bene, lo troverete tra poco sulle pagine di Cuore Denari. Facciamo l'elenco della spesa prima di salutarci, dottoressa Menna. Esatto. Quindi uova. Dopodiché, poi, quindi uova, germe di grano, arachidi, merluzzo, semi di girasole, dopodiché anche il cioccolato fondente. Un classico per i flavonoidi. Esatto, esatto. Il caffè, perché con la caffeina comunque stimola la concentrazione e l'acutezza, come ha detto lei, preso in quel momento particolare, e poi le verdure, soprattutto la famiglia dei broccoli. Esatto, broccoli, cavoli, cavolini, tutti quanti sono ricchi di vitamina C e di acido folico. E senza dimenticarci delle famose noci, a cui potete aggiungere in questa stagione anche i mirtilli, la borsa della spesa, sulle pagine di Cuore Denari. Tra poco salutiamo i nostri ospiti, linea al GR.